Vigilanza Rai. Riccardo Villari, nonostante tutte le pressioni del suo partito, il PD, non intende dimettersi dalla carica di presidente della commissione di vigilanza della Rai. Riccardo Villari, intanto, conferma che è deciso a rimanere in carica almeno fino a quando non vi sia un'altra soluzione ampiamente condivisa. Sentiamo. Presido l'istituzione, ne garantisco il funzionamento e la continuità, ribadendo una disponibilità. Ove mai si riuscisse a superare una condizione che prima della mia elezione paralizzava l'istituzione, io sono pronto a formalizzare le mie dimissioni. Sono stato eletto legalmente. Eletto! Non mi dimetterò assolutamente. No! Perché sto bene dove sto.